tuoi. Non li avevo mica visti mai, non li avevo mica carezzati, perché non è facile. I grandi tristi come i tuoi, che sicuro non li cambierai. Può cambiare tutto il mondo, quelli non cambieranno mai. Dentro si capisce come stai, quante volte litighi coi tuoi. Sempre poco se ti va, sei sincera quando fingi, ma quando parli sei così sicura che diventi timida. Non ti piace piangere perché chissà poi che pensano di te. Quando poi ti chiudi in camera, il telefono non squillerà. Sentirti respirare forte dopo ridere, forse perché è troppo facile, o magari è solo che sei te ad avere tutto quanto in mente, se non è impossibile. Occhi grandi e tristi solo i tuoi, cambieranno il mondo se lo vuoi, cambiano la musica ma noi lo capiremo. Sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.